L'idea alla base di questo progetto, che è maturato da una serie di esperienze che ognuno di noi abbia portato avanti all'interno del, diciamo, panorama dell'arte urbana, e abbiamo deciso di organizzare delle cose su Bologna, proprio perché è da tanto tempo che non si vedono delle iniziative genuine dal basso che trattino di queste argomentazioni, e un po' proprio perché ci è stata data la possibilità di gestire questo spazio in modo totalmente diverso dal solito. Lo spazio del Centro Sociale della Pace solitamente è uno spazio comunitario aperto per le persone del quartiere e non solo del pretello di Bologna. Ci hanno gentilmente dato la possibilità di organizzare all'interno di questa cornice invece degli eventi totalmente nuovi, sia per loro che probabilmente anche per noi, per cercare di dare un po' di respiro a alcune forme di espressione di arte urbana che molto spesso non trovano passi, secondo noi, abbastanza consoni, ecco, a questo tipo di forma d'arte. Ricordiamo infatti che innanzitutto è un format flash quello che stiamo creando, si terrà in via del Pratello lì al CSP, in questo spazio appunto inusuale che vi faremo conoscere pian piano, perché raccoglie un sacco di segreti e chicche. Questo è un format, dicevo, che si terrà ogni secondo venerdì del mese, quindi iniziamo proprio stasera, però poi ogni mese, ogni secondo venerdì del mese, faremo una mostra che durerà un solo giorno. Esattamente, infatti le mostre che abbiamo programmato sono delle mostre flash, appunto delle mostre molto rapide che puntano a colpire e a scioccare l'osservatore con tutta una serie di input visuali di un certo tipo. Per organizzare la programmazione al meglio abbiamo cercato artisti il più possibile diversi tra loro, che a gruppi di vario tipo verranno uniti in quelle che saranno le tematiche del flash, di ogni flash differente. Vogliamo ricordare chi c'è in mostra questa sera? Sì, questa sera infatti iniziamo con la mostra che parlerà soprattutto di tre artisti fondamentali. Innanzitutto come si chiama, diciamolo? La mostra si chiama Colla. Esatto. Colla. Esatto. Colla. Attaccatevelo in testa. Esatto, attaccatevelo ovunque, colla, perché volevamo parlare di quella che è una forma di espressione come la poster art, che su Bologna, ma in generale in tutta Italia, in Europa e nel mondo, ha avuto molto successo. E gli artisti che porteranno la bandiera di questo metodo di intervento sullo spazio urbano sono Guerriglia Spam da Torino, SNEM e UFO 5. Esatto. Tutti quanti esponenti della poster art. Ricordo Guerriglia Spam, per esempio, collettivo presentissimo anche a Bologna, parla di arte, ma non solo, anche di politica attraverso i suoi poster. Caso specifico, presentato anche un nuovo progetto che si chiama La Voce del Popolo, istruisciti per non diventare come me, che è una carrellata di cattivi esempi sotto forma di soggetti stilizzati che rappresentano il razzista, il misogino, lo xenofobo e il fascista, che hanno già iniziato un po' ad invadere tante città come Torino, Milano e non poteva mancare anche Bologna. Insieme a lui, appunto, che ci sarà anche SNEM, come dicevi tu, presentissimo anche a Bologna. Trovate suoi pezzi, per esempio, all'Isola, al Laboratorio L'Isola, al Micasa, al Rusco, per strada. Forse è uno dei pochi poster artist che cui i lavori continuano a reggere sotto i portici di Bologna, sfidando veramente gravità e qualsiasi altra cosa. E ultimo c'è anche UFO 5, come dicevi tu, che con la carta riesce a fare veramente delle cose incredibili, e non mi riferisco solo ai poster, ma oltre a loro faremo anche questa sera, oltre in realtà una chicca, perché visto che durerà solo un giorno, chiediamo un po' a chi verrà a vederci di aiutarci poi a disallestire, diciamo così, la mostra, perché tutti i poster che saranno in esposizione o comunque l'allestimento è in vendita a dei prezzi veramente simbolici, proprio per aiutare a diffondere l'azione, a diffondere l'arte, a diffondere i messaggi che ci danno questi artisti, per cui sì, mi raccomando, venite. Portare la scena. Portare la scena. E a imparare anche come si fa la colla, così magari ve li portate non solo a casa, ma li potreste mettere anche in strada. Ma questo è un altro discorso. E oltre a loro ci sarà anche un art shop corner. Questo sarà una cosa fissa anche nel nostro format. Ci saranno un po' di banchetti espositivi che cambieranno mese per mese. Ti ricordi qualcuno tu? O vuoi parlarne un po'? No, beh, abbiamo pensato che fosse interessante dare la possibilità alle persone di conoscere in modo più diretto per supportare gli artisti. Infatti ci terrei a ricordare che Flash non è un progetto di galleria, non è un progetto di arte contemporanea, tanto per dire quella proprio classica, non è un progetto collegato con Arte Fiera Bologna, ma è una cosa totalmente indipendente che viene dall'underground, viene dal basso e attinge all'interno di questi insiemi tutta la sua forza e tutta la sua potenza. Quindi è anche un modo molto diretto sia per incontrare il lavoro degli artisti, sia ovviamente per supportarlo, e abbiamo pensato che la cosa migliore fosse anche allestire una sorta di mercatino artistico in cui vari artisti, non solo chi fa arte urbana ma anche chi fa illustrazione, disegni e insomma arte di qualsiasi tipo, potesse mettere a disposizione del pubblico a dei prezzi ovviamente super popolari, perché sempre di Pretello si tratta, siamo a Bologna, noi non veniamo da situazioni di un certo tipo e veniamo dal basso e puntiamo a quello. Credo che questa sia la cosa forse più interessante, perché è sempre più difficile trovare iniziative veramente genuine in questo campo e che creano una connessione così stretta anche con l'osservatore, insomma quello che è fruitore di questo tipo di esperienze. Ricordo qualche ospite che ci sarà con noi questa sera ai banchetti, troverete alcuni degli amici dell'Olè Festival oltre l'editoria con le stampe e i lavori di Inchiostro Lisergico, Mi Chiamo Zeta, Roberta Gio Munci e Punxo, Atena, Marta Baroni, Lume, Gloria Goderecci, Ritardo, noi stessi di Radio Città Fusico con Shoppers Stampe di alcuni artisti che ci supportano, e per finire sarà presente anche un banchetto di stampe benefit con i disegni di Percy Bertolini, Atena e vari artisti in supporto delle compagne condannate durante un presidio a Perugia nel 2014 contro le sentinelle in piedi per aver gridato loro fuori i fascisti dalla città. Quindi non solo arte ma anche impegno sociale e politico, perché l'arte è anche questo. Assolutamente d'accordo, e beh, ci vediamo stasera, direi, no? Assolutamente, ricordiamo l'appuntamento questa sera, lo vuoi dire tu, dov'è? Via del Pratello 53 al Centro Sociale della Pace, in pieno centro, possibile non arrivare. Esatto. Tanto uno si va a fare una birra e viene anche dentro al flash a rimanere scioccato da quello che stiamo preparando in queste ore. Esatto, quindi ci troviamo questa sera dalle 19 a mezzanotte, via del Pratello 53 con Colla.